Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. The tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Buongiorno, buongiorno. State ascoltando Restiamo Animali, una trasmissione, come ci piace dire, per vivere, pensare e agire cruelty free. E questa è la puntata numero 452, nella quale stabiliamo che a un domatore preferiremo sempre un gattaro. Ma parleremo anche di pennelli da barba, rinoceronti rimpatriati e del compleanno di Gandhi. Speriamo di avervi incuriositi. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god. Dedichiamo questa puntata a una tigre senza nome, prigioniera di un circo, che durante uno spettacolo nella città russa di Magnitogorsk, dopo essere stata costretta a saltare attraverso tre anelli infuocati, è stata colta da convulsioni sino a perdere conoscenza. C'è un filmato sul web girato da uno spettatore a riprova di quanto stiamo raccontando. Il domatore tocca più volte l'animale svenuto a terra con l'asta che impugnava e lo trascina anche per la coda, ma l'animale sembra incapace di riprendersi. La tigre si è rimessa in piedi solo dopo che gli assistenti del domatore le hanno gettato addosso tre secchi d'acqua. Il comportamento del domatore ha scatenato l'indignazione di molte persone, ma questo è solo l'ennesimo caso di animali addestrati e costretti a svolgere esercizi o spettacoli che poco hanno a che fare con la loro natura selvaggia. La tigre, secondo il domatore, che si chiama Artur Bagdasarov, avrebbe subito uno spasmo muscolare, un qualcosa che lui definisce come normale, qualcosa che può capitare a tutti. Bagdasarov ha detto che la salute dell'animale non è a rischio. Al domatore, alla sua immagine di maschio un po' all'antica, sicuramente vecchio stampo, un uomo muscoloso, temerario, che rischia la vita impugnando fruste e bastoni, costringendo imponenti animali selvatici a fare esercizi contro natura, animali che, lo precisiamo, dovrebbero vivere in altri luoghi della terra e in condizione di libertà, noi preferiamo e preferiremo sempre figure maschili differenti, come quella, per esempio, del gattaro romano intervistato dalla nostra corrispondente Francesca De Matteis. Sentiamo il servizio. Allora, sono qui con Davide, gattaro del quartiere Collatina. E, lui ha una storia molto particolare da raccontarci, che riguarda la sua passione che ha per i gatti e una piccola colonia che con i denti sta riuscendo a portare avanti. Allora, Davide, ci racconti chi sei e com'è nata la tua passione per i gatti? Vabbè, io da bambino ho avuto già due gatte, quindi avevo cominciato ad amare animali da piccolo. E comunque l'ha iniziata perché nel 97 qui girava una gatta con la figlia, quindi la portai a far vedere e mi dissero che per curarla la dovevo tenere a casa. L'ho tenuta a casa finché si è guarita e poi viveva su casa un po' in giardino. Che è un giardino però condominiale. Ma che è successo poi a un certo punto? Da questa esperienza sei arrivata ad avere una macchina, una fantastica ritmo, che è diventato un magazzino per tutti i tuoi gatti. Quindi da due, che è successo a un certo punto? E che piano piano si sono fermati i latte, perché quando metti il cibo per uno si avvicinano pure gli altri, gente, quelli che girano. Quindi io l'ho tutti sterilizzati. Di lì ho avuto un po' di tranquillità, finché un giorno nel 2000 sono venuti i vigili e che mi dissero che avevano avuto delle lamentele telefoniche, parecchie lamentele, e mi fecero una multa di 200.000 lire. Mi fecero una multa sulla tutela ambientale, una macchina abbandonata e rilascio in terra di liquidi inquinanti. Cosa che non è vero, perché ecco, la macchina sta qui, non perde niente, ecco, e quindi ecco, la macchina sta tuttora qua. Certo, io non l'ho più adibita a colonia felina, dentro ci sono degli attrezzi. Cioè, il problema è stato che qualcuno ha cominciato a dire che questa macchina è usata come colonia. Io sulla multa che mi fecero c'era scritto che ho adibito la macchina a magazzino e a colonia felina. Voglio capire, Roma quanto cerca di aiutare chi aiuta i gatti di Roma? Ma io adesso, dopo quell'esperienza, è diventata colonia felina, perché ho fatto la richiesta, tutto quanto. A quel tempo erano 15 elementi. Okay. E ti davano, perdonami, un contributo per le sterilizzazioni, che se non erro il municipio dovrebbe dare un minimo di quote. E queste, queste quote riescono ad arrivare? Non danno soldi, ma mandano alle ASL veterinarie per le sterilizzazioni. Okay. Cosa che io non ho mai usufruito, perché diciamo, ho preferito andare dal privato. Anche perché all'ASL veterinaria tocca stare lì alle 8 di mattina e ritirarlo a mezzogiorno. Se non hai un posto dove fare la degenza, specialmente per le femmine che almeno 3 giorni devono essere coperte dall'antibiotico, cose, che a casa non me la posso portare. Anche perché tu a casa hai anche un cagnolino, giusto? Ho un cane, e a quel tempo avevo 10 gatti, poi sono diventati 6 e adesso 3. Allora erano 6 gatti fissi e 4 che facevano su e giù. Quindi tu poi a che piano abiti, perdonami? Io sto al secondo piano. Quindi tu gli aprivi la porta, loro scendevano dal portone. Sì, lo conoscevano, quindi c'era Cicchetta, Clara e Alessio e Micione. Erano quei 4 che salivano e scendevano. L'altro no, l'altro erano fissi. Però adesso purtroppo 3 se ne sono andati, uno appresso un altro. Ora me ne sono rimasti 3, di cui uno del 1998, quindi... A oggi, a agosto, sono 20 anni che ce l'ho io. Francesca De Matteis per Restiamo Animali, Roma. We had all the time in the world. Time enough for life to unfold all those precious things left as a star. We had all the love in the world. If that's all we had, you'll find we need nothing more. Every step of the way we'll find out, put the cares of the world far behind us. We had all the time in the world just for love, nothing more. Questo pennello è fatto con veri peli di tasso, per una sensazione morbida e lussuosa ogni volta che ti fai la barba. È questo lo slogan che compare nella pubblicità di uno dei tanti pennelli da barba di lusso, fatti in vero pelo di tasso. Ma poco dopo che l'associazione statunitense animalista PETA ha condiviso un raccapricciante video nel quale veniva mostrato il modo in cui vengono ottenuti i pennelli da barba di lusso fatti con il vero pelo dei tassi, 4 aziende hanno rapidamente messo al bando i pennelli da barba di tasso. Secondo la PETA, i tassi sono catturati illegalmente in libertà usando lacci e altri metodi crudeli e vengono allevati e confinati in piccole gabbie dentro gli allevamenti in cui vengono poi violentemente uccisi. I peli di tasso sono spesso usati per la pittura, per il trucco e per i pennelli da barba che sono venduti da aziende di tutto il mondo. Siamo rimasti scioccati nell'apprendere queste terribili pratiche, ha dichiarato il gigante Procter & Gamble. Anche se non abbiamo alcuna prova che qualcuno dei nostri fornitori utilizzi questi metodi, riteniamo di avere una posizione di mercato che ci consente di contribuire a fermare tali pratiche. Abbiamo deciso di interrompere subito le forniture di prodotti con vero pelo di tasso e mentre termineremo il nostro stock accelereremo i nostri sforzi per sviluppare alternative per il futuro. Questi impegni sono in linea con gli sforzi in corso da parte di Procter & Gamble per trovare alternative ai prodotti di origine animale. Questo è il comunicato di Procter & Gamble. C'è anche chi disquisisce e fa distinguo a seconda del tipo di tasso utilizzato per tali prodotti. Il tasso comune o tasso europeo è incluso nell'appendice 3 della Convenzione di Berna, protetto da leggi nazionali in molti paesi europei. Mentre invece il tasso cosiddetto naso di porco, essendo una specie asiatica introdotta in Europa, non è protetta, anzi è ritenuta infestante e dannosa. Pertanto è ammesso il suo utilizzo per produrre pennelli di pelo naturale. Maltrattare il tasso immigrato è dunque lecito. Sono proprio tempi duri per i tassi extracomunitari. Mettiamo in croce gli animali immigrati, ci sono anche casi di rimpatri forzati di animali, come il curioso caso di Eric, un rinoceronte nero di 8 anni che pesa più di una tonnellata, tirato su a fieno, banane e cocomeri in uno zoo della California, che è stato rimpatriato nella sua terra d'origine, cioè la Tanzania. Il regalo fatto alla Tanzania dallo zoo di San Diego, però, non è totalmente disinteressato. Eric ha una missione, cioè salvare la sua specie dall'estinzione. In Africa, infatti, i bracconieri hanno messo in pericolo diverse specie protette, tra cui anche il rinoceronte nero, per il suo preziosissimo corno. Si calcola che oggi gli esemplari rimasti siano meno di 5.000. A Serengeti ce ne sono tra i 50 e i 100. Eric, che dopo un viaggio costato $140.000 a noi umani e a lui uno stress inaudito, si trova ora nella riserva di Singita Grumeti a Serengeti in Tanzania, dove era nato 8 anni fa. Eric condividerà 275 ettari di territorio con la Ikipia, un esemplare femmina arrivato 10 anni fa dal Kent, Inghilterra. La speranza è che tra i due scoppi la scintilla dell'amore, e soprattutto che l'unione sia molto feconda, eventualità tutt'altro che scontata, vista l'irascibilità di questi animali. I rinoceronti neri, infatti, sebbene siano più piccoli rispetto a quelli bianchi, sono molto aggressivi. La loro attitudine all'attacco è molto nota agli appassionati di safari, che spesso vedono le proprie jeep distrutte dalle cariche di questi animali, il cui peso si aggira intorno alla tonnellata e mezzo. Seguito e curato da un'equipe di veterinari, Eric dovrà adesso abituarsi alla vita selvatica della savana. Fino a poco tempo fa erano gli uomini a provvedere ai suoi bisogni e a sfamarlo. Adesso però dovrà imparare a procurarsi il cibo da solo e a confrontarsi coi suoi simili. Noi auguriamo a Eric una vita lunga e felice e, perché no, anche feconda, assieme alla Ikipia o a qualunque altra rinocerontessa di suo gradimento. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the twilight in between. Follow, follow, follow my gypsy fairy queen. We exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Si avvicina una data molto importante per noi che ci definiamo trasmissione radio per una società cruelty free. Si tratta della giornata internazionale della non violenza, che viene commemorata ogni anno il 2 ottobre, data di nascita del Mahatma Gandhi. Il motivo per cui la non violenza ha a che fare con il nostro interesse verso gli altri animali e con la proposta di un'alimentazione a base vegetale ce lo spiega Lorenzo Guadagnucci nel suo servizio. Sentiamo. Gandhi è spesso considerato un personaggio appartenente al mondo della spiritualità, ma Gandhi fu innanzitutto un uomo politico, che si impegnò in un'impresa ciclopica come la lotta di indipendenza dell'India dall'impero britannico e in un progetto di liberazione dei più poveri, milioni e milioni di persone, dall'oppressione politica e sociale in cui vivevano al suo tempo. In Gandhi pensiero e azione erano tutt'uno. Riprese l'idea della non violenza, traduzione del termine ahimsa, letteralmente non uccidere, dalla tradizione jainista, antica religione indiana diffusa nel suo stato d'origine, il Gujarat. Fece della non violenza la bussola della sua azione politica. Chiamava Satyagraha, letteralmente forza della verità, le tecniche di ribellione non violenta contro l'ingiustizia e l'oppressione. Scoprì che la non collaborazione, la disobbedienza civile, l'autogestione erano strumenti più efficaci delle armi nella lotta contro i poteri costituiti. Così facendo mandò in crisi l'impero britannico, spiazzato dal messaggio e dalle tecniche imprevedibili di quel fakiro indiano seminudo, come ebbe ad apostrofarlo il futuro primo ministro Winston Churchill quando lo vide un giorno a girarsi dalle parti di Westminster. La non violenza di Gandhi si estendeva agli animali. Nato in una casta che praticava il vegetarismo, il giovane Gandhi cominciò a consumare carne di nascosto all'inizio del suo percorso nelle file dell'indipendentismo indiano. Si era convinto che la soggezione del suo popolo fosse legata anche a una debolezza fisica dovuta all'assenza di proteine animali nell'alimentazione. Certe dicerie evidentemente esistevano già ai suoi tempi. tornò al vegetarismo quando approdò in Europa, a Londra, per i suoi studi in giurisprudenza. Aveva promesso alla madre, al momento della partenza, di non toccare né alcol né carne. A Londra scoprì la Vegetarian Society di Henry Salt e il suo vegetarismo divenne politico, visto che la Vegetarian Society aveva una concezione rivoluzionaria del suo progetto di società. Non predicava la semplice conversione dell'individuo a un'alimentazione senza carne, ma immaginava una società diversa, una società nuova, che escludesse la sopraffazione degli uni sugli altri. Purtroppo i moderni animalisti, anche i filosofi e pensatori impegnati nella complicata costruzione di un pensiero detto antispecista, trascurano solitamente la tradizione non violenta, che anche in Italia ha avuto un importante sviluppo grazie ad Aldo Capitini, altro personaggio poco e spesso mal conosciuto. Filosofo e uomo politico, a Capitini si deve l'idea di scrivere non violenza in un'unica parola, per evidenziare la sua natura di progetto positivo di trasformazione sociale e non di semplice appello alla rinuncia alla violenza fisica. Capitini, come Gandhi, progettava una società liberata, tendenzialmente egalitaria, e pensava che la società degli umani dovesse stabilire relazioni nuove con gli altri animali e con l'ambiente circostante, fuori dall'antropocentrismo tipico di tutto il pensiero occidentale. Lui stesso fu vegetariano, in chiave anche antifascista, e cofondatore della Società Vegetariana Italiana, in un'epoca in cui il vegetarismo era visto dai più come un'incomprensibile bizzarria. Oggi sappiamo di vivere nell'antropocene, l'era geologica caratterizzata dall'azione distruttiva dell'uomo, e siamo alla ricerca di un pensiero capace di ispirare istituzioni e comportamenti che tolgano all'uomo la presunzione di essere il dominatore del pianeta. Cerchiamo anche relazioni di giustizia all'interno delle società umane, coscienti delle crescenti, ormai insopportabili disuguaglianze. A ben vedere, è la direzione da sempre coltivata in seno alla non violenza. Una tradizione, se vogliamo, più consolidata e forse anche più convincente di quel magma ancora in fermento che chiamiamo antispecismo. In vista del 2 ottobre possiamo allora riflettere su questo pensiero del Mahatma Gandhi, pensatore e uomo politico ucciso il 30 gennaio 1947 da un militante estremista nazionalista di religione induista. La prima condizione della non violenza, diceva, è la giustizia, ovunque, in ogni settore della vita. Forse è esigere troppo dalla natura umana. Io però non lo penso. Nessuno dovrebbe dogmatizzare sulla capacità di degradazione o elevazione della natura umana. Gandhi. C'è chi cambia vita e si va in India, tanto il cambio è conveniente, tanta gente per un niente lava, stira, asfalta strade intitolate. Non mi sto qui a dire a chi, di sicuro indovinate. Ecco adesso, meditate, meditate. A che serve lavorare se gli indiani sono tanti? Puoi contare sui contanti con la faccia di Gandhi. Andiamo nelle fabbriche a parlare di Gandhi, andiamo nelle carceri a parlare di Gandhi, andiamo nelle scuole di borgata a inaugurare un'altra scuola di borgata intitolata Mahatma Gandhi. Andiamo nelle fabbriche cinesi in mezzo ai campi calabresi, pomodori di Ragusa li raccolgono gli adepti di Mahatma Gandhi. Gandhi. Gandhi. Gandhi. E se un povero Cristo sulla croce gli salta la mosca al naso, sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, diceva Gandhi. E per cominciare a costruire la pace, partendo dalle piccole cose, noi vi proponiamo anche questa settimana un'idea originale e gustosa da mettere in tavola. Una ricetta 100% cruelty free. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ottobre si celebra il compleanno di Gandhi e proprio per questa ragione è stata scelta come data dedicata alla non violenza. E allora, la vostra rubrica di cucina preferita poteva non darvi una ricettina doc? Ecco allora una ricetta indiana dei Medu Vada con coconut chutney. Gli ingredienti per 4 persone sono 250 g di urad dal, mezzo cucchiaino di semi di cumino, un peperoncino verde fresco, qualche foglia di curry, mezza cipolla bianca, un pezzetto di radice di zenzero, 50 g di polpa di cocco, un mazzetto di coriandolo fresco, olio di semi per friggere, sale e pepe. Per la chutney al cocco, 50 g di polpa di cocco fresco o essiccata, un peperoncino verde fresco, dei semi di cardamomo, sale e acqua. Lasciate gli urad dal, che sono dei fagioli mungo neri decorticati e assomigliano a delle lenticchie bianche, lasciateli in ammollo in abbondante acqua per almeno 4 ore. Trascorso il tempo necessario, scolateli bene e tritateli con un mixer e se necessario aggiungete pochissima acqua. Dovete ottenere un impasto simile ad una pastella, abbastanza solida. In caso necessario addensatela con della farina di riso o della semola. Aggiustate di sale e lasciate riposare per mezz'ora. Nel frattempo preparate la chutney. Dovrete semplicemente tritare tutti gli ingredienti in un mixer, aggiungendo poca acqua alla volta fino ad ottenere una crema densa. Adesso riprendete la pastella di urad dal e aggiungete tutte le spezie tritate, mentre la polpa di cocco e la cipolla dovranno essere tagliate a pezzetti piccoli. Con le mani inumidite formate delle ciambelline che friggerete nell'olio bollente fino a quando saranno ben dorate. Scolate, condite con del sale e accompagnate con la coconut chutney. La nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 453 della trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.